Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Fra pochi secondi vi parlo di braccio di ferro, ma non era quello che mangiava, non è quello che mangia gli spinaci, è un robot. Benvenuti e benvenute a Möbius, ci sentiamo fra poco, adesso i titoli. Braccio di ferro aiuta a recuperare l'uso degli arti nei casi di ictus. È un robot terapista progettato a Genova. È salpata da Venezia la Marco Polo 2010, una nave che ripercorre la Via della Seta, studiando la memoria genetica attuale degli antichi viaggiatori. Dammi mille baci. Amore e sessualità ai tempi dell'antica Roma. Su Mercurio ci sono vulcani attivi. Ce lo rivelano le immagini scattate dalla sonda Messenger della NASA. Braccio di ferro allora, ma non quello che mangiava spinaci, un nome divertente, un po' lieve per un problema invece molto serio con il quale parlo con Pietro Morasso. Buonasera Morasso. Buonasera. Ingegnere in area robotica, lei lavora dove? A Genova? Sì, area robotica e bioingegneria. E bioingegneria, è certo, perché questo è il campo in cui ci siamo. Allora, braccio di ferro è un robot che viene incontro, mi sembra buono questo nome che gli avete dato, insomma un po' simpatico per un problema invece piuttosto complesso e difficile. Siamo nel campo delle persone che hanno subito un ictus e che tipicamente hanno un arto, un braccio sinistro o destro che non funziona più. Braccio di ferro interviene qua. Quando diciamo si cerca di recuperare perlomeno parte della funzione, è un qualcosa che il paziente stringe la mano, ha, diciamo così, ha una spalla, ha un braccio, ha un polso, e diciamo la mano dell'arto affetto viene collegata con il paziente. E nell'ambito di una specie di videogioco, perché poi c'è anche naturalmente c'è un gioco abbastanza divertente nel quale il soggetto viene coinvolto, braccio di ferro e aiuta il paziente passo dopo passo a recuperare parte della capacità, sì, o di raggiungere un target, sgonfiare un palloncino, inseguire una macchinina che si muove su una traccia tipo Indianapolis o cose del genere. Vediamo di descriverlo bene. Intanto non immaginatevi il classico robot che ha la testa, le gambe, ma qui c'è praticamente soltanto un braccio con una mano e poi dietro ci sarà tutto un marchingegno, no? È una cosa di questo genere. Sì, diciamo che è modulare, quindi oltre un braccio ce ne sono due, no? Quindi e a seconda delle applicazioni se ne usa uno oppure l'altro. Usano tutte e due, naturalmente. Ecco, in questo tipo di patologie la rieducazione non è produttivo che sia solo a quella strettamente fisioterapica, che quindi si concentra sul il braccio stesso, insomma, la sua muscolatura terminale. Bisogna riuscire a intervenire sul rapporto fra braccio e cervello. Ma questo diciamo che è vero anche per la rieducazione fisioterapica, cioè se il focus del fisioterapista è soltanto sui muscoli, sulla parte puramente motoria, evidentemente non è un buon fisioterapista. Ah, ecco. Perché un buon fisioterapista usa l'intervento sul braccio, sulle articolazioni, sui muscoli per rieducare il soggetto, il paziente, a quello che si chiamano modelli interni di controllo, cioè l'idea che nel normale qualunque movimento più o meno della vita quotidiana o più complesso anche viene pilotato da un insieme di modelli interni di controllo, no? Sì. Poi c'è anche quel discorso dell'imaging funzionale, per cui diciamo con l'utilizzo delle macchine di imaging come risonanza magnetica si è verificato che anche un rehearsal, una rieducazione pensata di movimenti può essere altrettanto efficace dei movimenti fatti, no? Sì, lei sta riferendosi a quel tipo di ricerche che riescono a vedere quali aree del cervello entrano in azione, si attivano in corrispondenza a certi movimenti, a certe funzioni. Per non esempio, soltanto quando vengono eseguiti, ma anche quando vengono pensati. Quando vengono pensati anche, certo. E questo è l'aspetto importante. Giustifica il fatto che diciamo così, l'attività cerebrale non è legata direttamente ai muscoli, ma a un insieme di capacità sensori, moto, cognitive, che poi permettono di fare i movimenti. Ma allora braccio di ferro fa lavorare quel braccio, ma perché soprattutto guarda dietro, cioè guarda a riattivare il collegamento tra cervello e braccio. Questo è l'obiettivo. Ecco, una modulazione della interazione col paziente, quindi modulando forze, velocità, accelerazioni, misurando diciamo così punti di fasi di impuntamento, incertezze, no? Resistenze, e facendo in maniera che tutti questi elementi tra virgolette negativi vengano superati e il movimento riacquisti quella che è la fluidità normale. E qui non c'è tanto un problema di sostituire con maggiore efficienza la fisioterapia allora, ma c'è forse un problema di distribuzione dell'assistenza, di numero di persone che hanno bisogno di ciò. C'è quello, e poi c'è comunque il fatto che quello che è il punto di forza del robot, e non a caso braccio di ferro, e abbiamo scelto questo nome un po' diciamo divertente, non si stanca mai, no? Certo. Quindi diciamo così può unire alla qualità anche la quantità. Purtroppo a proposito di quantità, c'è da citare la grossa quantità di pazienti che aspettano una rieducazione adeguata e che purtroppo cresce di anno in anno, vista la popolazione anziana che caratterizza tutti i paesi industriali. Abbiamo un incremento di problemi di questo genere dovuti all'allungamento della vita, e quindi è un side effect, però purtroppo dobbiamo organizzarci. Bene, credo che abbiamo detto tutto sul braccio di ferro. È ancora in definizione, ancora in sperimentazione, o sta già diventando operativo? Beh, sta diventando operativo, perché dietro c'è una piccola, c'è una company, come peraltro diciamo sistemi del genere in giro per il mondo ce ne sono una dozzina, fra 10 e 20, esistono da una decina d'anni, e quindi siamo nella fase in cui si esce fuori dai laboratori di ricerca per entrare diciamo nella clinica. Quindi siamo al momento giusto. E anche in Italia si è fatto qualcosa, diciamo, progettandolo e diciamo così, pensandolo direttamente in Italia. Bene. Non i soldi, ecco, naturalmente. Bene, allora speriamo che questo braccio di ferro con la malattia venga vinto, e auguri per la sua ricerca. Grazie, buonasera. Si può scrivere un libro intitolato Miracolo Africano, un libro che si interessa di economia e sviluppo anche tecnologico? Sì, si può scrivere, l'hanno fatto due giornalisti, Massimo Di Nola e Riccardo Barlam, ed è edito dal gruppo 24 Ore. Lo si può scrivere con quel titolo perché ha senso affermare che c'è un'Africa che sta progredendo, certo insieme a un'altra che ha ancora tanti problemi, ma è bene che questi grandi problemi non offuschino completamente altre tendenze che invece sono significative. Di Nola e Barlam sono giornalisti di formazione economica. Sentite un breve estratto di Massimo Di Nola nel corso di una presentazione del libro alla libreria Azzalai di Milano, che è una libreria specializzata in cultura e storia del sud del mondo. Primo fruitore di questo libro sono stato io, di fatto. Cioè, mi sono accorto, da questi segnali che adesso racconterò, che la mia idea dell'Africa, dell'economia dell'Africa, dei regimi politici dell'Africa, della società civile dell'Africa, era ferma a, che so dire, i libri di geografia degli elementari, agli articoli che si leggono sui nostri giornali, per cui l'Africa è solo di colore, è solo quando la gente si scanna, è solo quando si vuole parlare di disgrazie immense, e mi sono accorto che c'è tutto un altro mondo che invece viene fuori, di cui non si parla. Allora da 3 o 4 anni comincia a arrivarmi dal Sudan. C'è un gruppo italiano, che in realtà erano quelli che avevano progettato le vecchie raffinerie del legno negli anni 60, che riceve da cinesi e malesi l'incarico di fare progettazione e procurement, cioè quindi gestire tutti i soldi per una raffineria a Port Sudan, di quelle grandi che si fanno oggi, da 2 miliardi, 3 miliardi di investimenti. Comincio a guardare e vedo in Sudan la CMC, Cooperativa Muratori di Rabenna, ha appena costruito un albergo Hilton. Poi mi capita successivamente di occuparmi di Mozambico, e vedo che in Mozambico il signor Moncada, siciliano, uno dei più grossi imprenditori dell'eolico e del solare, si è acquistato 20-30 mila ettari di terra per produrre iatropa, che è una pianta non commestibile che serve per fare biocombustibili, perché in tutto il ciclo energetico dei suoi impianti in Italia gli serviva a un certo punto avere dei biocombustibili di questo tipo. Dico, ma il siciliano, ma c'è anche un trentino, un adesso mi ricordo come si chiama, uno, no, un trentino, uno di Bolzano, stessa cosa sia in Mozambico che in Gabon. Poi in Gabon vedo che c'è uno, il più grosso imprenditore italiano del legno, che si prende una piantagione di 800.000 ettari e ha messo in piedi un impianto di segheria, lavorazione del legname, eccetera, di quelli che sarebbe grosso anche in Italia. Nel libro si parla anche di tutta la tecnologia dei cellulari, delle telecomunicazioni. Bene, è sorprendente verificare quanto si muova in questo campo in Africa in termini di numeri, di ritmi di espansione, anche in utilizzo della telefonia mobile come supporto a nuove attività e a cambiamenti che si stanno introducendo in vecchi lavori. Vi do un altro titolo di argomento presente in questo testo, attività di pesca e cellulari. È abbastanza sorprendente come lungo le coste africane stia diventando fondamentale l'uso del cellulare nella vita imprenditoriale dei pescatori. Sì, il problema esiste, deve essere analizzato con molta attenzione da noi tutti. Quale problema? Adesso ve lo dico. I contatori elettrici nelle case, per esempio, in molti paesi europei, Italia compresa, si stanno cambiando. Arrivano quelli di nuova generazione, elettronici, in grado di segnalare ai fornitori di energia quando, ovvero in quali momenti della giornata, in un'abitazione si usa di più o di meno l'elettricità. L'obiettivo è interessante perché la produzione di energia ha costi diversificati. Di notte costa meno una centrale di quanto costi di giorno, perché di notte c'è meno richiesta e quindi tutto l'impianto, tutti i macchinari sono meno impegnati. Con questi nuovi contatori quindi sarà possibile interpretare meglio i consumi di una famiglia. Si può far andare una lavapiatti silenziosa a mezzanotte, ecco che la bolletta sarà meno cara. Il problema a questo punto è il seguente: siamo pronti a pensare che, avendo in testa che l'energia ci costa meno, non dobbiamo poi finire per consumarne di più? Se le auto diventeranno tutte molto meno inquinanti, non è che andremo anche in bagno con l'automobile? Perché a quel punto 100 km di percorso più inquinante sono equivalenti a 1000 km di percorso meno inquinante. È un problema non da poco questo, perché la sostenibilità del pianeta e della nostra vita non è solo un problema tecnologico. La tecnologia è certamente importante, ma la svolta è e soprattutto sarà fortemente connessa a un cambiamento culturale. Ciao Chiara Polo. Ciao Federico Polo. Perché parliamo di Marco Polo? Sì, parliamo di Marco Polo 2010. È una bella spedizione che è partita circa un mesetto fa, forse qualche giorno meno, da Venezia con una nave, poi piano piano sta procedendo anche via terra, ed è un bellissimo progetto scientifico proprio itinerante che è partito appunto da Venezia e arriverà a Shanghai più o meno in settembre. Comunque qui con noi c'è l'organizzatore e soprattutto il responsabile scientifico, e ci racconta che cosa sta succedendo durante questo viaggio itinerante. Paolo Gasparini, buonasera. Buonasera anche a voi e ai radioascoltatori. Buonasera Gasparini, dove siete adesso all'incirca? Noi stiamo lasciando il Turkmenistan e stiamo entrando in Kazakistan. Ecco, state facendo un bel giro, appunto dicevamo, partendo dall'Italia fino a Shanghai utilizzando l'antica via della seta. Per fare che cosa? Che cosa state analizzando? Che cosa state studiando? Un progetto scientifico che si prefigge insieme con Terra Madre e Slow Food, quindi le comunità del cibo, che spesso sono delle piccole vere etnie, quindi piccoli popoli sperduti lungo la via della seta, di verificare la componente genetica delle variazioni delle popolazioni, soprattutto la componente genetica collegata con la capacità percettiva, quindi la genetica del gusto e la genetica delle preferenze alimentari. Temi fondamentali che sono fortemente collegati anche con la tradizione, con la cultura, con la storia di un popolo e di un insieme di popoli affascinante come quello che vive, ha vissuto lungo la via della seta, che è stata per centinaia, migliaia di anni scambio di tutto, scambio di merci, scambio di idee e scambio di cibo. Era la via che dall'estremo oriente, quindi dall'oceano Pacifico della Cina arrivava fino in Europa, al centro, all'Adriatico praticamente. All'Adriatico, insomma. Certo. E però lei prima ha detto genetica del cibo. Cioè, ci spiega un po' cosa vuol dire che voi state verificando la genetica del cibo? Cioè andate a verificare che cosa qual è l'alimentazione in vari punti lungo la Via della Seta ancora oggi? Andiamo a verificare qual è la relazione tra il tipo di alimentazione che queste popolazioni hanno e la genetica, quindi la componente biologica, la capacità biologica, genetica che ognuno ha di percepire i vari gusti, l'amaro, il dolce, il salato e di conseguenza le preferenze alimentari. Noi geneticamente siamo diversi, ognuno di noi è diverso e rispetto per esempio all'amaro, grazie ad alcune alterazioni di varianti di un recettore per l'amaro, per esempio si distinguono i soggetti che hanno una capacità molto forte di percepire l'amaro, quelli che ce l'hanno media e quelli che lo sentono in maniera molto debole. Questo fa sì che poi queste persone tendano a eliminare per esempio i cibi amari, per esempio quelli che sentono l'amaro molto forte tendono a eliminare, non so, le birre molto, molto marcate, tipo birre scure, tutti i cavoli, cavolfiori, brassicace, il fegato, tutta una serie di sostanze o di alimenti che sono amari. Ed è una questione genetica questa della percezione? Questo è geneticamente determinato e per l'amaro è molto molto forte, si conosce anche quali sono le mutazioni che determinano questa differenza, però ci sono differenze anche per il dolce, per il salato e per quel gusto che si chiama umami e che ci viene dalla, diciamo, dalla cultura giapponese, che è la capacità di percepire gli aminoacidi, in particolar modo glutammato, certi sapori tipici della carne. Ecco, vabbè, ma senta, ci spiega, io qui vedo la vostra mappa, voi arriverete a Korog oppure a Samarcanda e cosa fate? Cosa fate? Come ci arrivate? Avete un camion e cosa tirate giù? Degli amari? No? No, noi andiamo in queste comunità, per esempio lei ha citato Korog, dove dovremo ancora recarci, e lì ci sono tutta una serie di comunità del cibo che fanno parte di questa rete di comunità di terra madre, che sono piccoli allevatori, piccoli coltivatori, che spesso, come dicevo prima, corrispondono a delle vere e proprie etnie, quindi hanno anche una diversità di popolazione, e quello che noi sottoporremo, e quello che abbiamo già fatto, che sottoporremo andando per esempio a Korog, gli facciamo un test per l'amaro, un questionario per le preferenze alimentari, gli facciamo un test per l'olfatto, per capire se hanno una normale percezione olfattiva, gli facciamo un test per l'udito, anche sempre collegato con il cibo, perché anche l'udito è un organo di senso che in qualche maniera interviene anche nel cibo, e alla fine raccogliamo anche un campione di saliva dal quale estrarremo il DNA, lo estrarranno i nostri colleghi che rimangono in Italia e poi facciamo l'analisi genetica. Alla fine confronteremo le informazioni genetiche con le informazioni culturali, quei questionari a cui hanno risposto, in parte anche con qualche dato di salute. Cioè voi arrivate, sequestrate 50-60 cavie e gli fate fare i vostri test, così? Ma diciamo che non sono cavie, sono molto contenti di fare. No, immaginiamo, certo. Provate con loro, cioè li sottoponete a un test che per esempio è in grado, a partire da una qualcosa che voi avete definito come elemento rigoroso di confronto, no? Un amaro di confronto, se loro lo percepiscono più o meno. Per esempio. Esatto, c'è è un test molto semplice, un test che per esempio questo del test dell'amaro, con una cartina che contiene una sostanza amara che a sua volta è presente nei cavoli, insomma nelle brassicace, e ha una determinata concentrazione, chi la percepisce, come dicevo prima, in maniera molto forte viene definito come, col terminologia inglese, super taster, chi non la percepisce viene definito non taster. E queste differenze esistono tra popolazioni e popolazioni, diciamo che da noi in Italia sono circa il 30-35% sono i cosiddetti non taster, in India sono circa il 55-60%, in Africa il 4-5% in Africa occidentale. Questo spiega anche perché la cucina, al di là degli aspetti culturali ma anche di preservazione dei cibi e del clima ambiente, è diversa nelle varie macro aree, insomma. Ma perché la Via della Seta? Anch'io stavo per chiederlo. Cioè, quello che ci interesserebbe capire è perché avete scelto il tracciato di questa antichissima e importantissima via. Ma ci sono state diverse ragioni. Noi già da tempo conduciamo studi di questo tipo su piccole comunità isolate italiane. E la Via della Seta ha alcune caratteristiche fondamentali. È stata, per, come dicevamo prima, per centinaia, migliaia di anni, terreno di scambio di culture, ma scambio anche di spezie, scambio di cibi e scambio anche di geni. C'è una malattia che è tipica della Via della Seta che si chiama malattia di Boucher. Quindi è un luogo ideale di confronto tra la variabilità genetica, che è ancora molto ricca lungo la Via della Seta, e tradizioni culturali che si sono sovrapposte nel centinaia di anni. Quando è previsto l'arrivo a Shanghai? L'arrivo a Shanghai è previsto intorno al 6-7 di settembre. Ah, ecco, e poi da lì forse comincia il lavoro vero e proprio di analisi, eccetera, eccetera, giusto? Il lavoro più faticoso, tra virgolette, dello scienziato. Ma in parte il lavoro verrà fatto da una equipe che rimane a casa, tra virgolette, e è rimasta poveretti, a casa. Cioè, tutte voi viaggiate loro a casa. La fatica. Vabbè. Esatto. Vabbè, ma c'è esatto. E perché stiamo trasmettendo e continueremo a trasmettere via internet i dati che stiamo ottenendo, quindi in parte vengono già elaborati, così come stiamo spedendo i campioni biologici indietro nei vari istituti, per cui in parte i dati verranno elaborati e possibilmente presentati già in una fase assolutamente preliminare all'Expo di Shanghai. E però, come avete detto giustamente voi, il grosso del lavoro poi verrà dopo certamente. Ma tornando un po' in conclusione alla Via della Seta, direi che in fondo certo possiamo considerarlo come un lunghissimo paese stretto, no? Perché intorno a questa via si sono incrociati destini, personaggi. si formò anche in paesi che intorno alla Via della Seta avevano situazioni molto molto diverse, addirittura vuotissime, però lungo questa via invece c'era una infinita civiltà di qui cosa saranno? Saranno intenso, 30.000 chilometri buoni, credo, se non di più. Questo non glielo so dire con esattezza, so che ci sono, da dove partiamo, da dove siamo partiti e dove arriveremo, ci sono 6 ore di fuso orario e i chilometri sono tanti, sono veramente tanti, anche perché li stiamo facendo e li finiremo via terra e quindi già li sentiamo sulle spalle. È lunga. Con cosa vi state muovendo? Ci stiamo muovendo con mezzi che vengono forniti a livello locale, che ci portano poi al confine, oltre che permetterci di raggiungere le comunità. Ricordiamo che molte di queste comunità sono comunità che vivono in montagna, in collina, in zone anche insomma relativamente isolate, poi ci portano al confine, passiamo il confine a piedi e dall'altra parte c'è un'organizzazione prende. Analoga che ci ricarica e ci riporta, ci fa lavorare, permette di lavorare nella nazione successiva. Va bene Gasparini, allora buon viaggio, ci sentiamo al ritorno. Sicuramente sarà un piacere nostro rendervi partecipe dei risultati che avremo ottenuto. Grazie, buon grazie, viaggio. Buon lavoro. Grazie a voi. Si dice spesso, le popolazioni del Tibet che vivono lassù a 4.000 metri e più sono abituate a quelle altezze perché nei millenni si sono adattate, con un mutamento genetico quindi. È tutto vero, ma i millenni sono solo 3.000 anni fa. Esce questo dato da una ricerca dell'Università californiana di Berkeley. Rasmus Nissen e il suo gruppo hanno studiato 50 tibetani che vivono a 4.500 metri. Da quelle parti l'ossigeno nel sangue è diventato il 40% di quello che abbiamo a livello del mare, che è una bella differenza. Il nostro corpo in quelle condizioni sviluppa delle patologie classiche, uniformi, valgono per tutti. Una delle più evidenti è il mal di testa, un forte mal di testa, per esempio, che può diventare quasi cronico. Ebbene, perché i tibetani non ne risentono? A loro non fa male la testa. Il campione di 50 tibetani di altura, quindi quelli di 4.500 metri, è stato confrontato con 40 persone dell'etnia Han, che sta più giù, verso i 2.000 metri. Le differenze fra i due gruppi si sono rivelate essere solo quelle che riguardano tutti quei geni che hanno a che fare con l'ossigeno. Intuizione allora. Prima tutti vivevano in basso, verso i 2000 metri, e poi un gruppo ha preso a salire per ragioni storiche, chissà perché, insomma. Studiando la storia di questa popolazione allora, veniamo a sapere che effettivamente 2750 anni fa, quindi quasi 3000, c'è stata questa separazione c'è stata. Il dato molto singolare è che questa mutazione genetica negli umani è la più veloce mai registrata. Dammi mille baci, Chiara. È un libro. Federico, è un libro. Siamo in radio. È un libro, è un libro. Veri uomini e vere donne dell'antica Roma, edito da Feltrinelli, e l'autrice è qua con noi. Buonasera Eva Cantarella. Buonasera a voi. Buonasera dottoressa. Io incomincio col dire, Chiara, ma anche tu l'hai visto, insomma, che è un bel libro. Un bel libro, anche a sprazzi molto divertente. Io conoscevo un po' Catullo, ma tutto il resto non lo conoscevo, è stato veramente interessante. Ripeto il sottotitolo, Cantarella: Veri uomini e vere donne nell'antica Roma. Nella nostra trasmissione noi ci interessiamo spesso di antropologia e anche di antropologia moderna, cioè quella che, non avendo più a disposizione tribù sparse in tanti continenti, lavora sulle tribù metropolitane. Questo libro è una, come si potrebbe dire? Un testo di antropologia metropolitana di una grande metropoli di 2000 anni fa, perché questo è quello che lei ha fatto, intorno a come ci si amava nell'antica Roma, e intorno all'Eros sappiamo che c'è di tutto, c'è assolutamente una quantità di vita quotidiana impressionante. Lei insegna diritto greco antico e diritto romano, sì. Però insomma, interessarsi di diritto in qualche modo vuol dire interessarsi di storia, di società, di cultura in genere, no? Beh sì, il diritto da solo non ha senso, non lo puoi capire ieri come oggi. Il diritto è un aspetto della cultura, ma il diritto è, come dire, il diritto esprime e codifica quello che il dover essere, come bisognerebbe comportarsi. Naturalmente le regole non vengono mai rispettate completamente, a volte non lo vengono per nulla, insomma c'è un diverso livello tra la società e il diritto, c'è sempre un ostacolo. E quindi per capire, per cercare di capire un mondo, un momento, un pezzo della storia, bisogna mettere a confronto il diritto con la realtà sociale. E quello che lei ha fatto relativamente a questa grande città che poi era il centro di un grande impero. Noi non vogliamo assolutamente proporle una sintesi impossibile in pochi minuti del libro. Le chiederemo delle cose, dei singoli flash, degli spot che abbiamo spulciato qua e là, che ci hanno divertito fuori e che ci sembra interessante raccontare agli ascoltatori. Ecco, per esempio, le varie modalità di definire il bacio. Ah, è bellissimo. A Roma esistono addirittura dei vocaboli latini. Ognuno definisce una modalità di bacio. Esistono vari tipi di bacio, vero dottoressa? Sì, beh, esistono vari tipi di bacio, anche oggi naturalmente, ma oggi li chiamiamo tutti baci. E invece nell'antichità, in particolare a Roma, avevano vari nomi. In particolare i più diffusi sono Osculum, Basium e Savium. E naturalmente, anche se non è che, capisce, non è una cosa proprio, non è che si può dire che sempre un termine indichi solo quel bacio, c'è una certa anche sovrapposizione, ma grosso modo la cosa interessante è che l'osculum, che è il bacio sulla bocca, perché osculum viene da os, e os è la bocca, no? Osculum è come dire la piccola bocca, boccuccia, beh, non è quello che è un bacio d'amore, no, è il bacio di saluto che si dava ai in particolare alle donne in famiglia. E si dice, ci si domanda anche perché, e si dice, si pensa che una delle spiegazioni comunque è che, siccome una volta era proibito alle donne a Roma bere vino, addirittura una legge di Roma lo avrebbe previsto la pena di morte, e quindi serviva ai parenti, agli uomini, della famiglia, per capire se le donne avevano bevuto. Ecco, vedi, il libro è tutto così. Vedi? Molto interessante. Poi invece c'è il basium, che è quello di Catullo, no? Il bacio appassionato. C'è il bacio appassionato, il savium, lì c'è un problema anche lì, perché un termine è come dire più volgare, un altro termine invece più raffinato e letterario, ma insomma ecco, sì. Sì, diciamo che si alternano citazioni. Il bacio d'amore è il basium. Il basium è quello passione, quello più classico era il basium. È bello perché nel libro ci sono citazioni molto auliche, molto romantiche, eccetera, e anche citazioni come gli antichi romani erano un pochino volgarotti, un pochino qualcosa, sì. Erano volgarissimi, sì. In fondo questo dobbiamo dirlo, perché lei... Erano un po' rudi. Erano un po' rudi, sì. e lei questi passaggi, questi tratti nel libro li segnala bene. Però Ovidio dà anche dei consigli di bellezza che sono piuttosto precisi, interessanti. Leggo un breve stralcio proprio da una, come dire, una indicazione che dà Ovidio alle ragazze, che fa così: ah, stavo proprio per dirvi che nelle ascelle l'aspro odore del capro non alligni e non siano le gambe irte di duri peli, e devo anche avvertirvi che l'incuria non vi annerisca i denti e che il viso sia lavato ogni mattina con l'acqua appena attinta. Quindi c'era attenzione a tutti questi aspetti esteriori. Attualissimo. Assolutamente, c'era grande attenzione, la bellezza era molto importante, devo dire non solo per le donne, anche per gli uomini, eh? Gli uomini romani stavano molto attenti, anche loro per esempio si depilavano, Cesare si depilava, cioè non era, l'idea di virilità non comportava non curarsi dell'aspetto fisico, e comunque Ovidio in questo caso si rivolge in particolare alle donne, dà consigli di ogni genere, che vanno da quello appunto di lavarsi i denti a quelli che riguardano invece, ecco, come per esempio come nascondere i difetti fisici nel fare l'amore. Mm. E quindi allora che posizione assumere a seconda di quale parte del corpo si vuole mettere in evidenza o nascondere. Ah, pensa tu, vedi, ecco, questo mi era, ti era sfuggito, l'ho letto, lo era vai a riprendere, benissimo. Ecco, però quello che noi ci domandiamo, io e Chiara, è che in questa grandissima città, 1,5 milioni, cioè che dice addirittura 2 milioni di abitanti, il centro di un impero tecnologicamente ovviamente per loro avanzatissimo, una potenza molto organizzata, come può essere che invece si possa pensare che delle sfortune per l'impero e per la sua politica, per le sue strategie, possano derivare dal comportamento poco dignitoso delle matrone, delle donne? E lei qui cita anche un caso che mi piacerebbe lei ricordasse, di un processo fatto a una trentina di matrone. Eh beh, se ci sono dei famosi processi in età repubblicana alle matrone, bisogna dire che intanto c'è una grande diffidenza nei confronti delle donne a Roma, nel senso che i romani avevano molta paura di essere avvelenati dalle donne. La conoscenza delle bacche, delle radici, e quindi l'idea che erano maghe, la conoscenza delle bacche, delle radici è tipicamente femminile, sin dai tempi ben più antichi dei romani. E le donne continuavano a maneggiare, per esempio c'era un tempio a Roma di Bonadea, che della dea che proteggeva le donne nel momento in particolare della gravidanza e del parto. Lì c'era una specie di farmacia di rimedi di questo tipo, erbe, bacche, eccetera, eccetera, gestito, diciamo, e curato dalle donne. Quindi i romani avevano paura di queste cose, chiamavano tra l'altro venenum, c'era il veleno, lo chiamavano venenum bonum e venenum manum. Quindi venenum bonum erano le cure mediche, però era facile secondo loro che le donne poi usassero in modo cattivo queste loro conoscenze e pratiche mediche. Ma se si comportavano male, secondo una certa morale, ciò poteva portare sfortuna alla politica? Beh, sa come, voglio dire, questa però è una cosa che sentiamo ripetere, no? Che uno dei problemi a Roma, Augusto per esempio, con tutta una grande campagna, la Roma è in pericolo, perché? Perché i costumi femminili ormai sono cambiati, perché le donne non vogliono più fare bambini, perché le donne non rispettano più i costumi di un tempo. Si erano emancipate. Ma è strano. Emancipate, poi c'è una difesa della famiglia tradizionale, per cui le donne devono essere come Lucrezia, devono stare in casa, eccetera, eccetera, e quindi se ci sono problemi è chiaro che, insomma, ecco. I problemi per l'impero, perché si sfalda la sua società, diciamo, è per questo. La base. E quindi la famiglia era la base, quindi si sfaldava la famiglia, e la perdita e la corruzione, secondo Augusto, secondo i moralisti dell'epoca, della morale familiare poteva essere pericolosissimo per l'intera società. Siamo rimasti stupefatti, adesso Chiara lo leggi tu, sì, di quali erano alcuni consigli per anticoncezionali. Sì, a proposito di rimedi popolari, di credenze, eccetera, eccetera, è bellissimo questo passaggio, lo leggo dal suo libro a pagina 118, in cui dice: venivano utilizzati amuleti di ogni genere e specie, che andavano dal fegato di un gatto chiuso in un tubo legato al piede sinistro, a un pezzo di matrice di leonessa, in questo momento mi sfugge cos'è la matrice, ma ora glielo chiedo subito, chiuso in un tubo d'avorio legato a una parte qualsiasi del corpo. E queste sono soltanto alcune, no? Dei metodi concezionali. Beh, lei capisce che allora, voglio dire, era un problema grosso, e questo, non essendoci rimedi scientifici, e i romani, bisogna anche dire, credevano molto alla magia. E quindi questi erano rimedi magici, eh. C'erano anche di altro tipo, naturalmente, c'erano delle specie, come dire, di pessari, le donne introducevano nella vagina delle sostanze o delle pezze imbevute di sostanze che si ritenevano contraccettive, insomma, quindi tentavano di tutto. Che roba terribile. Vabbè, però, però sistemi che sembrano quelli, diciamo, delle tribù più primitive, più, no? È difficile metterli insieme con lei ha ragione, ma lei però era così. Era così, perché gli ripeto questa faccenda del credere, ci sono delle credenze magico-religiose, insomma, me ne viene in mente una, forse non ne parlo nel libro, ma i romani quando mangiavano, anche durante i banchetti, facevano cadere a terra delle briciole del cibo perché pensavano che gli dèi che stavano sotto le prendessero, era una forma di offerta agli dèi. Tanto è vero che ci sono dei mosaici bellissimi che rappresentano proprio queste cose, superstiziosissimi proprio. Di pesce. Si vede, sono credenze, ecco, che oggi ci sorprendono, ma che erano allora normalissime. E poi un'altra cosa che ci ha colpito è questa dello star system, cioè anche nella Roma antica c'era il bello, che era il gladiatore, che potrebbe essere il nostro calciatore, e poi insomma le sue fidanzate, le aspiranti, i no? Fan. Il gladiatore era veramente una star. Sì, il gladiatore, alcuni gladiatori, perché poi la maggior parte naturalmente erano dei poveretti, però se uno riusciva ad affermarsi era veramente una star, anche perché noi pensiamo che il gladiatore non necessariamente per sua fortuna moriva al primo combattimento, per diventare una star doveva sopravvivere, a volte sopravviveva a lungo e diventava assolutamente, era amatissimo dalle donne, che si dice, naturalmente sempre i moralisti dell'epoca dicono che sempre in questa loro ottica, per cui le donne ormai sono eccetera eccetera, tanto più questi sono brutti e pieni di cicatrici, tanto più sono considerati veri uomini e quindi le donne impazziscono. Un successo. Secondo me in questo libro c'è tantissima attualità. Anche nella concezione della virilità. Eh sì, probabilmente sì. Eva Cantarella, Dammi mille baci, Veri uomini, vere donne in antica Roma, edito da Feltrinelli, un libro che consigliamo assolutamente. Grazie Cantarella. Grazie a voi. La Terra gira intorno al Sole in 12 mesi, gira su se stessa in 24 ore. Ci sono stelle molto massicce che girano su se stesse, sembra impossibile, in pochi secondi. Che l'universo sia fatto di trottole, questo ormai lo sappiamo. Ruotano anche le galassie, tanto per essere precisi. Di questi anni l'individuazione di nuovi pianeti è cosa frequente. Qui a Möbius ne abbiamo parlato tante volte. Uno di questi, denominato 55 Cancri E, è un bel po' più grande della Terra e ruota però intorno a un Sole che su per giù è come il nostro, come dimensioni. Rebecca Dawson e Daniel Fabrichi, due astronomi che lavorano a Cambridge, Stati Uniti, hanno calcolato che 55 Cancri ruota intorno al suo Sole in 17 ore e 41 minuti. Questo sì che vuol dire avere fretta, che ne dite? È un bel record, ma che potrebbe essere offuscato da un pianeta che ruota intorno alla stella Swips 10, di cui però si sa ancora poco, non è detto che questo pianeta ci sia. Il dato singolare a cui pensare naturalmente sono le stagioni. Pensate un po', se noi passassimo dai cappotti invernali, dai riscaldamenti a termosifoni alle infradito per non scottarsi i piedi sulla sabbia, il tutto in 17 ore. Non c'è nessun bisogno, è ovvio che le stagioni siano un dato generalizzabile in universo, tutt'altro, molte cose comunque cambierebbero in profondità. Se ci pensate bene, l'oggetto, anche se qui sono oggettoni, insomma, sono cose piuttosto grosse, diciamo il fenomeno oggetto naturale, per esempio, non so, come le cascate, ecco, cose di questo genere, che è più diffuso quasi sicuramente in tutto l'universo, che cos'è? È il vulcano, i vulcani. E nel nostro sistema solare abbiamo le tracce di vulcani che non esistono più e abbiamo invece, ecco, Chiara Albicocco vi porta su Mercurio, dove si è scoperta una grande attività vulcanica. È in orbita dal 2004 ed è in grande forma. Infatti Messenger, la sonda della NASA, ci ha restituito delle immagini che cambiano il volto del pianeta più piccolo, Mercurio. È detto la cenerentola dei pianeti perché oltre ad essere il più minuto è anche il più vicino al Sole. Ed ora, insomma, sappiamo che presenta una superficie di vulcani attivi. Anche su Venere è stata recentemente rilevata un'attività vulcanica piuttosto intensa, con eruzioni e tempeste magnetiche, ma ora torniamo a Mercurio. La scoperta è stata piuttosto importante, ha fatto scalpore in campo astronomico ed è firmata dalla NASA. È stata pubblicata recentemente su Science e a raccogliere gli onori c'è anche un italiano. Si chiama Gabriele Cremonese, è astronomo dell'Osservatorio Astronomico di Padova ed è nostra ospite questa sera. Buonasera Cremonese. Sì, buonasera. Ecco, allora ci deve raccontare che cosa avete osservato da queste immagini che ci ha restituito Messenger. Beh, queste splendide immagini del Messenger per la prima volta sono riuscite a osservare quasi tutta la superficie del pianeta, anche se a risoluzione abbastanza basse ancora. Però sicuramente ci sono stati dei bacini di impatto, cioè provocati dall'impatto di corpi che sono arrivati sulla superficie di Mercurio, in cui successivamente, in epoche molto più recenti, c'è stata anche attività vulcanica. Ci spiega che cosa significa innanzitutto avere un'attività vulcanica su un pianeta? Cioè, come la vediamo? Cosa osserviamo? Ecco, quello che si vede su un pianeta è simile a quello che potremmo vedere anche in un vulcano terrestre. Attività vulcanica significa che c'è stata un'attività sotto la superficie del pianeta e in seguito a qualche evento geologico della lava è fuoriuscita. Quindi quello che noi vediamo, le tracce di questa fuoriuscita di lava. Quando diciamo recentemente attivo, che cosa intendiamo in tempi? Ecco, bisogna stare attenti, ecco. Perché stiamo parlando di tempi geologici. Recente significa 300-400 milioni di anni fa, ecco. E questo per Mercurio è una grossa novità, chiaramente. Infatti noi sono circa 35 anni che conosciamo le immagini, le prime immagini di Mercurio. Adesso questa è stata una bella svolta, insomma, per un astrofisico, no? Certo, perché per 35 anni abbiamo sempre pensato che Mercurio, l'attività vulcanica era di 3 miliardi di anni fa. E adesso invece ci siamo resi conto che attività vulcanica c'è stata anche 300 milioni di anni fa. Quindi un bel salto sicuramente in termini geologici, in termini temporali. Ecco, mi pare di capire che in questo modo pensiamo che la superficie sia costantemente un po' in evoluzione, no? Continui a cambiare? Certo, questo significa se per 35 anni pensavamo che l'attività vulcanica è stata è finita 3 miliardi di anni fa e invece succede che è finita 300 milioni di anni fa, a meno che non si scopra qualcos'altro, questo significa che il pianeta Mercurio è continuato ad evolversi, ha continuato a cambiare la sua superficie e quindi quello che noi osserviamo non è una fotografia di 3 miliardi di anni fa, ma anche di epoche recenti. Anche di epoche più recenti. Ecco, un po' il suo merito e anche quello dell'ente di ricerca per cui lavora, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica italiano, è anche quello di aver proposto un po' un'ipotesi di datazione di questo materiale vulcanico, no? Sì, sicuramente gli americani si sono rivolti a noi perché noi abbiamo messo a punto un nuovo modello per fornire l'età di una superficie planetaria. E questo è un modello innovativo che dall'anno scorso che abbiamo pubblicato, gli americani è piaciuto subito. E considerando che gli americani sono sempre stati per definizione molto scettici nei confronti di qualunque modello teorico che fornisca un'età di una superficie planetaria, è sicuramente un grosso riconoscimento. Ecco, immagino sia complicato raccontarlo, però ci dà un'idea di che cosa avete proposto? Guardi, le superfici di tutti i pianeti sono coperte da crateri di impatto. La Luna, per esempio, è uno splendido esempio. Cioè, impatto significa degli asteroidi, comete, meteoriti l'hanno colpito e hanno formato dei crateri. Il nostro modello consiste nel conoscere il flusso di questi impattori che colpiscono la superficie del pianeta. Da questo flusso che noi modelliamo e contando tutti i crateri di una certa regione, riusciamo a determinare quando si è formata quella regione, quando l'ultima volta che si è evoluta quella regione. Noi determiniamo una probabilità che un certo meteorite di una certa dimensione colpisca quella superficie. Da questa probabilità noi deduciamo l'età di quella superficie. Ecco, questi sono crateri di impatto, che sono un po' diversi però dai crateri vulcanici. Sì, certo, perché i crateri di impatto è un evento esterno, ecco, che li genera, è un corpo che la colpisce. Un cratere vulcanico invece è dal sottosuolo, che c'è un evento che permette la fuoriuscita di lava. Su Mercurio abbiamo trovato entrambi. Certamente, certamente. Ecco, e per quanto riguarda invece l'attività vulcanica, su altri pianeti è presente? Sappiamo recentemente che c'è stata attività su Venere, gli altri pianeti invece, vabbè, ovviamente oltre al nostro che lo conosciamo bene? Sì, certamente, perché anche la Terra, noi sappiamo che è un corpo continuamente... evoluzione, sì. Cioè in evoluzione, ma anche Marte ha avuto ed ha una sua attività endogena, una sua attività vulcanica. Per esempio, il corpo del Sistema Solare con l'attività vulcanica più intensa è Io, il satellite vicino a Giove. E immagino che avere informazioni su Mercurio, un pianeta così vicino al Sole, con una temperatura così elevata e una luce così forte, non sia molto semplice. Certo, perché infatti abbiamo dovuto aspettare 35 anni per mandare una missione su Mercurio, in quanto è un corpo molto vicino al Sole, quindi la temperatura, la radiazione a cui è sottoposto una missione, uno strumento, è molto più elevata, 10 volte maggiore di quello di un satellite vicino alla Terra. E quindi vuol dire che la strumentazione deve essere adeguata per sopportare la temperatura e la radiazione. Anche l'Agenzia Spaziale Europea sta costruendo una sonda che si chiama Bepi Colombo, che fra qualche anno verrà lanciata per arrivare su Mercurio. Ok, quindi ecco, le stavo per chiedere qual è la frontiera che si apre dopo questa vostra scoperta, immagino sia questa. Certo, perché praticamente il prossimo anno la sonda della NASA Messenger entrerà in orbita attorno a Mercurio, fino ad ora ci è passata vicino, però nel 2014 anche l'Agenzia Spaziale Europea lancerà questa sonda, che arriverà però solamente nel 2020. Ecco, quindi abbiamo tempo per risentirci e per scoprire le ultime novità. Va bene, grazie davvero Cremonese e complimenti. Grazie mille. Deep Impact, impatto profondo, sono due parole che credo molti abbiano nel loro immaginario fantascientifico. Le abbiamo ritrovate spesso intorno ai soggetti di alcuni film di fantascienza in cui si narra di sonde che devono impattare con oggetti dell'universo, ma anche addirittura interi pianeti che si scontrano. Però con Paola Rebusco, ciao Paola. Ciao, buonasera. Da Boston, invece, parliamo di una cosa molto specifica, Deep Impact, che sta avvicinandosi alla Terra. Allora. Sì, innanzitutto bisogna dire che questo è un po' Deep Impact parte seconda. Perché nella prima parte questo veicolo si è avvicinato ad una cometa e poi un veicolo simile è stato usato come sonda per schiantarsi contro la cometa stessa. Sempre l'uno è successo nel 2005. Questo veicolo è un veicolo madre che aveva sopra... Sì, un veicolo compagno. Esatto, che ha lanciato contro una prima cometa, che era quale? Tempel 1. Allora, Deep Impact è di fatto un veicolo spaziale, insomma. Sì, crea un po' di confusione perché il nome Deep Impact è usato sia per il veicolo spaziale, per la navicella, che per la missione precedente. Deep Impact sta arrivando vicino alla Terra? Sì, sta arrivando in questi giorni vicino a Terra per la quinta ed ultima volta ed arriverà a circa 30.000 chilometri al di sopra dell'Atlantico. 30.000 chilometri non sono mica tanti, no? I satelliti che usiamo per i sistemi GPS stanno all'incirca lì, per esempio, piuttosto vicino. È vicino, è vicino. E la ragione per cui la facciamo avvicinare tanto non è per ragioni di manutenzione, quanto piuttosto per controllarne l'orbita. Traiettoria. Questa è una sonda che deve raggiungere una cometa. Se adesso noi vedessimo la traiettoria della cometa e la traiettoria della sonda, diremmo che ognuno va per la sua strada e non si incontreranno mai, ma non è così. No, non è così. E noi quello che facciamo, sfruttiamo la gravità terrestre per cambiare, ad esempio, l'inclinazione, la velocità e proprio il percorso del veicolo spaziale, in modo che possa raggiungere la cometa. La prossima cometa che raggiungerà si chiama Hartley 2. Fra quanto si sa? A settembre di quest'anno inizierà le osservazioni ravvicinate di questa cometa. Ecco, ma perché è necessario usare questi sistemi gravitazionali? Non si potrebbe mandare direttamente il veicolo verso la cometa? Beh, allora questo veicolo innanzitutto dalla missione precedente è rimasto, diciamo, addormentato dal 2005 in orbita. E poi quindi, volendo usare per diverse missioni, per diverse osservazioni, vogliamo portarlo su traiettorie diverse. Potremmo farlo con dei meccanismi a bordo. Tu magari ti domandi perché non possiamo semplicemente usare dei propulsori. Mm. Il problema è che i propulsori consumano un sacco di energia, mentre la gravità è gratis. Un combustibile gratis. Esatto. Esatto, e questo è il motivo principale ed è anche una strategia usata in moltissimi altri casi, anche quando abbiamo mandato gli Apollo sulla Luna, in qualche modo si seguivano, no? Alcune orbite che utilizzavano il campo gravitazionale come qualcosa che può spingere senza bisogno di avere appunto qualcosa da bruciare. Sì, diciamo che nella navigazione spaziale è un metodo che è sempre utilizzato. Perché è il più conveniente. Beh, direi, Paola, che su Deep Impact abbiamo detto tutto. Per ora direi di sì. Ciao, buona serata. Ciao. È il weekend di Ferragosto. Molti considerano questa data come il giro di boa dell'anno lavorativo. Psicologicamente siamo più portati a pensare che dopo Ferragosto si riprende la quotidianità, che poi finirà verso luglio, un po' di vacanze, poi appunto eccoci qua, è arrivato il Ferragosto. No, voglio dire, per carità, è ancora vacanza, possiamo riposarci, però insomma tutto questo per dirvi che Möbius vi fa i migliori auguri per l'anno nuovo e comunque noi ci sentiamo fra 7 giorni. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. We'll be right back.